in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa, chiamiamola dei settimanali o comunque degli approfondimenti di quello che ci siamo un po' persi, non abbiamo avuto il tempo di leggere con attenzione dai quotidiani, dai settimanali e dai mensili che abbiamo avuto sotto gli occhi nella scorsa settimana. Comincio oggi da Internazionale, il numero che è in edicola da ieri, l'ho trovato in edicola fino a giovedì prossimo, questa rivista che, come credo la maggior parte di voi sappiano, raccoglie articoli apparsi all'estero, egregiamente tradotti nella nostra lingua, articoli ma anche fotografie. La copertina è dedicata a un articolo che poi trovate all'interno, a partire dalla pagina 38, un articolo pubblicato dalla London Review of Books di Naomi Klein, che lo ricorderete, è l'autrice di un famosissimo libro che si chiamava No Logo e che alla fine degli anni 90 poi negli anni 2000 diventò un po' la Bibbia dei no global, appunto, di coloro che osteggiavano la globalizzazione. E in questo articolo in particolare si occupa di un grande tema globale, che è il cambiamento climatico. In copertina si vede un ragazzo apparentemente forse indiano, comunque non occidentale, immerso fino alle ginocchia nell'acqua. Il sommario per lanciare questo articolo: emergenze ambientali, guerre, disuguaglianze economiche, sono tutte questioni legate tra loro, anche le soluzioni dovrebbero esserlo. E in un certo senso non curioso, ma anzi forse non è affatto una combinazione, di questo legame tra i cambiamenti climatici, le disuguaglianze economiche e quindi poi anche le migrazioni di coloro che scappano dalle guerre o dalle situazioni climatiche insostenibili per via dell'uomo, per via dell'intervento dell'uomo, ha parlato anche Papa Francesco giovedì nel suo intervento nella Giornata Mondiale del Creato, suscitando anche tra l'altro molte critiche, a mio parere la maggior parte delle quali ingiuste. Ma dal numero di Internazionale vi segnalo anche, come ha fatto anche in altre occasioni, una su tutte, l'11 settembre del 2001, di cui proprio cade l'anniversario domani, una specie di supplemento speciale con tutte le prime pagine dei giornali di giovedì 25 agosto, perché sapete, il terremoto c'è stato tra la notte di martedì e quella di mercoledì, quindi ovviamente i giornali di mercoledì non sono riusciti a dare la notizia, però il giorno dopo sì, ed è stata data e ripresa con le foto da un po' tutti i giornali del mondo. Sempre da Internazionale vi segnalo altri articoli interessanti, comunque legati all'attualità di questa settimana, ne abbiamo parlato tanto anche alla rassegna dei quotidiani, la vicenda della Apple. Sapete che è stata condannata, la Commissione Europea ha stabilito il 30 agosto che la Apple deve pagare questa gigantesca multa, perché si parla addirittura di 13 miliardi di euro, perché per molti anni avrebbe pagato lo 0,005% di aliquota sui suoi utili. Capite bene che, oltre a essere un'aliquota ridicola di per sé, c'è talmente una differenza tra quello che pagano altre società e soprattutto le persone fisiche che è apparsa a tutti una follia questa concessione che aveva fatto tanti anni fa l'Irlanda, naturalmente per attrarre investimenti. C'è poi uno speciale che comincia questa settimana dedicato al Festival di Internazionale che si terrà a Ferrara dal 30 settembre al 2 ottobre, e poi vi segnalo un articolo, sapete che ho un po' la passione della divulgazione scientifica, un articolo in questo caso tradotto da Wired, che si intitola Ricordi da scoprire, dove si racconta la storia di Susie McKinnon, che vive questa sorta di incubo psicologico, penso, per chiunque di noi. Cioè, lei vive in un presente continuo, ha un disturbo neurologico che le impedisce di fissare i ricordi delle sue esperienze e di immaginare il futuro. Sa molte cose della sua vita, ma non può riviverle. E a proposito di scienza, nella sezione delle brevi, sempre di Internazionale, si cita questo studio di Science pubblicato sulla rivista Science, e che spiegherebbe come anche i cani sanno, forse una cosa che tutti i padroni di cani hanno sempre pensato, anche i cani capiscono anche le parole. E a questo tema, perché su Internazionale è solo una breve, invece su Libero di venerdì scorso, lo trovate semmai online, c'è proprio l'approfondimento di Daniela Mastromattei, il titolo del pezzo è così: i cani ci capiscono, comprendono il significato delle parole, le intonazioni e i due emisferi del loro cervello funzionano come i nostri. E appunto tutti i dettagli di questa ricerca. Un altro tema molto importante, credo che purtroppo con tutto il resto che stava succedendo a livello economico e non solo, è passato un po' in secondo piano, secondo me, è questo processo di riconciliazione in Colombia. Ne parla Internazionale in due articoli, anche tra l'altro uno tradotto da El País, e dopo più di 50 anni di guerra civile c'è stato finalmente un accordo tra il governo e le FARC, cioè la guerriglia colombiana. Questo accordo dovrà essere confermato da un referendum che si terrà il 2 ottobre, però intanto appunto a questo accordo si è arrivati. E dall'Avvenire vi segnalo, è uscita in settimana, in questo caso lo trovate poi su internet, un'intervista a Ingrid Betancourt, che è una donna simbolo di questo conflitto, perché è stata prigioniera delle FARC per un periodo lunghissimo, poi a un certo punto liberata e per 6 anni, pensate, nelle mani dei guerriglieri, non si sapeva davvero, non c'erano certezze che fosse viva, poi alla fine è stata liberata e da allora si batte non solo per spiegare al mondo che c'era questo conflitto in atto, ma anche per arrivare a una soluzione, come speriamo veramente questa volta si sia riusciti a fare. Passiamo ai settimanali veri e propri, 7, quello allegato al Corriere della Sera ogni venerdì. In copertina c'è Paola Cortellesi, Io neocasta, perché no? Paola Cortellesi fugge dal sesso nell'ultimo film di Cristina Comencini, che appunto è di imminente presentazione, non è un caso raro, come emerge da un'inchiesta del Corriere della Sera. E questa è anche un po' l'occasione per 7, per il Corriere, di presentare questa iniziativa Al tempo delle donne, dove si toccheranno tantissimi temi che riguardano le donne, anche delle eventuali, secondo molte persone, cambiate abitudini verso il sesso, sia degli uomini che delle donne. Se ne parlerà a Milano in questa manifestazione, che prevede oltre 100 incontri nelle giornate tra il 9 e l'11 settembre. L'ennesimo commento sul burkini di Antonio Polito, che del Corriere della Sera è un vice direttore, ennesimo commento maschile, potremmo dire, perché si sono veramente moltiplicati negli ultimi giorni. Ieri sul Corriere della Sera, sullo stesso tema, si esercitava Ernesto Galli della Loggia. Io credo è più interessante, perché intuitivamente la questione ci tocca di più, sentire il parere di una donna su questo. Comunque il titolo del pezzo di Burkini è: ci sono pericoli maggiori del burkini. La proibizione del costume da bagno islamico, che sapete è quel costume che copre tutto tranne mani, piedi e viso, è l'esempio di come una tradizione inventata, perché in effetti il burkini è stato inventato, non è come il burka o tutti gli altri tipi di velo che invece hanno secoli di storia, una tradizione inventata fornisca l'alibi per non occuparsi di temi più seri. Un approfondimento anche sul Festival della Letteratura di Mantova, che compie 20 anni quest'anno, si terrà a Mantova dal 7 all'11 settembre e ci sono tantissimi incontri. È un po' sicuramente il festival di questo tipo più importante in Italia, ed è anche è stato una grande pioniere di un modello organizzativo, perché prevede, cosa che magari nessuno avrebbe potuto pensare avrebbe avuto tanto successo, prevede un ingresso a pagamento negli incontri con gli autori, che vengono da tutto il mondo e attraggono fan e non fan. Io credo che molte persone magari vadano a Mantova per vedere un incontro e poi naturalmente si imbattono in altre cose molto interessanti, perché dal 7 all'11 settembre, quindi in pochi giorni, ci sono centinaia di incontri. Un approfondimento sulle Paralimpiadi, che si terranno invece a Rio dall'8 al 18 settembre, e con questo poi si chiuderà il capitolo delle Olimpiadi appunto di Rio. Alle pagine 38 e 39 di 7 Paola Severini Melograni ci racconta questo mondo degli atleti diversamente abili. Per superare il limite c'è una bellezza diversa. 95 sono gli azzurri in gara a Rio de Janeiro e alla fine doneranno la loro casa Italia, cioè il luogo dove vengono alloggiati durante le Olimpiadi e dove erano alloggiati anche gli atleti che hanno partecipato ai giochi, potremmo dire principali, quelli che si sono conclusi il 21 di agosto. Questa casa Italia verrà donata ai brasiliani disabili. Dal venerdì invece vi segnalo una storia bellissima che è raccontata in un libro che è uscito da poco, ed è la storia di Suor Rosemary Nirumbe. Dirige una scuola in Uganda, dove soprattutto si dedica a salvare le bambine, in questo caso addirittura non i bambini, ma le bambine dal destino di diventare delle mini soldatesse. Naturalmente il problema esiste anche per i bambini, probabilmente è anche più diffuso, però ognuno con le proprie forze sceglie di dedicarsi a una causa, e questa coraggiosissima suora ha deciso appunto di cercare di salvare quante più bambine da questo destino del diventare un soldato. Sarà in Italia, sarà a Pordenone Legge, che è un altro festival letterario, e lei parteciperà il 16 di settembre per presentare appunto questo libro. Invece da Origami, che è quel settimanale molto divertente perché se voi lo prendete in mano, allegato alla stampa ogni giovedì, se lo prendete in mano sembra un foglio A4, per leggerlo non si può sfogliarlo ma stenderlo su una superficie che vi permetta appunto di vederlo tutto. Dedicato in gran parte al cinema perché come sappiamo c'è in corso la Mostra del Cinema di Venezia che si concluderà soltanto sabato prossimo con la consegna dei premi. Cinema, la fabbrica dei festival, questo è il pezzo di copertina. Il cinema, scrive Origami della Stampa, affronta la sfida di un vecchio concorrente, la televisione, perché come sappiamo molti dicono che alcuni prodotti televisivi degli ultimi anni sono quasi dei mini film, se non altro appunto nella costruzione e nella qualità. E guarda caso, Maurizio Porro ha intervistato Woody Allen nei giorni della mostra e Woody Allen, che è a Venezia per presentare il suo ultimo film, dice: la TV rovina il cinema. E poi dice che all'America manca una nuova ondata di film italiani, che in realtà La Grande Bellezza 2 anni fa ha vinto l'Oscar, quindi tutto sommato forse Woody Allen si è lasciato sfuggire qualcosa. Ma ci fermiamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Rieccoci, ancora buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati a questa seconda e ultima parte della rassegna stampa dedicata un po' agli approfondimenti che ci siamo persi settimana scorsa. Abbiamo guardato un po' di settimanali. Vi segnalo dalla lettura del Corriere della Sera, domani troverete il nuovo numero, questo se volete oggi lo trovate ancora in edicola, è il supplemento del Corriere della Sera che è appunto della domenica. Ripeto, torno sulla scienza perché mi affascina molto, ma qui poi tra l'altro questo articolo è scritto da Telmo Pievani, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, insieme a Federico Taddia ha fatto quella interessantissima trasmissione di approfondimento sulle Olimpiadi anche dal punto di vista scientifico e dell'etologo. In questo articolo che si intitola Siamo tutti figli dei microbi, Telmo Pievani ci racconta alcune scoperte recenti e in particolare quello che viene definito il grande evento ossidativo che è avvenuto, pensate, 2,4 miliardi di anni fa, e poi anche da lì si capisce come si è evoluta quella forma di vita che noi consideriamo forse molto troppo semplici, i batteri, che per esempio popola il nostro intestino. Lo spunto per parlarne è un libro dello scienziato Paul Falkowski, che descrive una convivenza in bilico tra cooperazione e belligeranza. Abbiamo imparato a tenerli a bada con gli antibiotici, i microbi naturalmente, ma loro mutano a ritmi rapidi e diventano resistenti. E a proposito di scienza, questa è veramente una storia di cui non si è occupato nessuno tranne il manifesto, e parlo del presidente uzbeko Islam Karimov. L'articolo apparso sul manifesto si intitola Karimov come il gatto di Schrödinger. Ora, qui è un titolo fin troppo, secondo me, così complicato da decifrare, però io ho fatto una piccola ricerchina. Questo gatto di Schrödinger, poi io essendo appassionata di gatti, mi basta la parola, è un esperimento fatto dal fisico Erwin Schrödinger nel 1935, un esperimento mentale per minare un po' alcune parti della teoria quantistica più ortodossa. Sostanzialmente, la fine dell'esperimento mentale conclude che non si può stabilire se questo gatto, il gatto di Schrödinger per l'appunto chiuso in una scatola, sia vivo o morto se non si apre la scatola. E da qui il paragone con Islam Karimov, perché di questo presidente dell'Uzbekistan, che peraltro è un paese importante dell'ex Unione Sovietica, non si sa niente e non si sa neanche chi potrebbe succedergli. Quindi sul manifesto Paolo Tosatti raccontava: il leader del paese dal 1989 sarebbe in fin di vita, ma è un mistero sulla sua successione. E vi segnalo in edicola da venerdì scorso, ma lo trovate ancora per le prossime 3 settimane, il magazine del Sole 24 Ore, che come abbiamo visto anche la settimana scorsa, ma non sono riuscita a citarvi più di tanto gli articoli interni, è dedicato a questo viaggio nella provincia italiana. Però ve lo ricito perché su questo numero, che ripeto era in edicola a partire da venerdì scorso, quindi come tutti i mensili era anche stato chiuso con un certo anticipo, c'era una bellissima recensione dell'ultimo libro di Tommaso Labranca, l'ha scritta Claudio Giunta. Questo libro si chiama Vraghina Roda, e poi, come purtroppo sappiamo, come probabilmente sapete, in realtà Tommaso Labranca, che aveva solo 54 anni, è morto all'improvviso martedì, nella notte tra lunedì e martedì. E quindi poi, tra l'altro, Claudio Giunta ha anche scritto il cosiddetto obituary, per dirlo all'inglese, perché per necrologio noi in generale intendiamo proprio poche parole, cioè solo per informare che qualcuno non c'è più, invece il suo era proprio un ricordo. E questa recensione la trovate alle pagine 134 e 135 di Il, in edicola appunto con il Sole 24 Ore, ancora per 3 settimane. Vi segnalo, così per diventare un pochino più leggeri, il numero di grazia di questo mese, di questa settimana, scusatemi, che dà moltissimo spazio al Festival del Cinema di Venezia, perché come credo non possiate fare a meno di vedere nei telegiornali, è anche un'occasione per fare tutti questi tappeti rossi, questi red carpet, dove gli attori o chi comunque presenzia la proiezione di un film viene vestito dagli stilisti più svariati o viene ingioiellato, soprattutto se si tratta di una donna, quindi un evento molto, molto fashion, potremmo dire così. Però grazie, non è solo questo, e c'è un bellissimo articolo di Annalena Benini a pagina 33 che prende spunto da quelle fotografie che credo tutti abbiamo negli occhi di 2 settimane fa di Omran Daknesh, il bambino di 5 anni che è stato estratto vivo quasi per miracolo da una delle tante case bombardate di Aleppo in Siria. Poi questa guerra in Siria che dura da più di 5 anni, quindi Omran è nato che la guerra era già in atto, non ha conosciuto altro che la guerra. Nella settimana scorsa non se n'è tanto parlato perché, come sappiamo, c'era veramente da occuparsi del terremoto. Tra l'altro, forse l'avrete visto su internet, molti hanno affiancato le foto di una città che da 5 anni vive la guerra come Aleppo, e per far capire che assomiglia molto alle rovine di una città come Amatrice, cioè sono città per motivi molto diversi e con tempi molto diversi rasi al suolo. Però mentre la ricostruzione sembra comunque già prendere forma dei piani di ricostruzione per tutti i paesi terremotati della guerra in Siria e del destino di Aleppo, veramente nessuno riesce a fare delle previsioni. Il titolo del pezzo di Annalena Benini è "Questa è la guerra dei bambini". Da Style Magazine invece il mensile, anche in questo caso un po' dedicato agli uomini, ma sono sicura che anche le donne lo sfogliano, così come gli uomini spesso sfogliano i mensili e i settimanali femminili, il Style, che dedica la copertina a Adriano Giannini, figlio naturalmente del più famoso papà, del molto famoso papà, che ha intrapreso come il padre la carriera di attore e vorrebbe anche diventare regista, all'interno un lungo servizio su di lui. Copertina di Vanity Fair è dedicata al cinema, ma a attori ancora più giovani di Adriano Giannini, e in particolare attrici, 18 giovani attrici del cinema italiano che interpretano, fanno un servizio di moda. Sono tutte anche bellissime ragazze, però appunto non sono delle modelle professioniste, ma ne viene fuori un originale servizio di moda, ecco, potremmo dire così. Adesso negli ultimi minuti, stavo per dire se siete d'accordo, ma anche se non lo siete, io purtroppo lo faccio lo stesso, apriamo un po' una finestra invece sui settimanali e mensili internazionali. Cominciamo dal New Yorker, che è questo settimanale americano, la sede è a New York, e la caratteristica, come forse sapete, è che in copertina ci sono solo illustrazioni, disegni dei più famosi illustratori, anche alcuni italiani sono stati chiamati a disegnare le copertine, uno su tutti Lorenzo Mattotti, e poi all'interno si occupa un po' di tutto, recensioni di libri, di cinema, fatti americani. Dal numero di questa settimana in particolare vi segnalo un comic strip, è una pagina inedita di Art Spiegelman, che è l'autore di Maus, il primo fumetto a vincere il premio Pulitzer. Accadde nel 1992, fu veramente una svolta, perché il premio Pulitzer prima da allora e dopo da allora è sempre stato solo assegnato a veri e propri romanzi. E poi vi segnalo anche nella rubrica delle recensioni di cinema che Anthony Lane, che è il critico cinematografico del New Yorker, molto ascoltato, molto seguito, recensisce Mia madre di Nanni Moretti, perché qui da noi è uscito nel 2015, in America è arrivato adesso ed è una recensione direi lusinghiera, e forse Woody Allen, che dice che all'America mancano i film italiani, ripeto, forse non è molto attento, perché i film italiani arrivano negli Stati Uniti e tutti sostengono, secondo me ha ragione, che negli ultimi anni c'è stato un revival del cinema italiano di qualità in tutti i sensi, nel senso che ovviamente anche la commedia, come dimostra il caso di Perfetti Sconosciuti, può essere di estrema qualità, e tant'è che verrà fatto un remake sulla base dello script originale di Paolo Genovese, il regista, ne verrà fatto un remake in America. Vediamo invece Monocle, forse qualcuno di voi lo conosce, anche questo è un mensile fondato da Tyler Brûlé, che è un giornalista che si è sempre occupato, anche per testate come Financial Times, di temi di lifestyle, potremmo dire così. E qui già vedo arrivare i messaggi che sto usando troppe parole inglese, perdonate almeno quando parlo di un mensile in lingua inglese. Qui la cosa curiosa è, vabbè, il titolo principale è dedicato a chi vuole reinventarsi, vuole mettere a punto un piano B per la propria vita. Però è divertente perché in copertina è anche richiamato uno speciale su Roberto Saviano, che questa settimana ha un po' imperversato perché si è espresso su tutto, dal terremoto al Fertility Day, su qualsiasi altro argomento, perché credo veramente che lui si consideri un tuttologo. Secondo me i tuttologi non esistono, però se lui si sente di dare opinioni su tutto, forse si considera così. E la sua storia, la sua vita con quell'episodio tragico delle minacce di morte che gli sono arrivate dopo la pubblicazione di Gomorra tanti anni fa, appunto questa storia, che non necessariamente al pubblico di Monocle era conosciuta, viene raccontata in questo special report nel numero di Monocle di settembre. Sempre per restare sui, ed è l'ultima segnalazione che riesco a farvi, sui settimanali internazionali, un numero speciale di Newsweek, che è uno dei due news magazine americani, l'altro è Time, tutto dedicato al Pokémon, ci vuole dare qualche piccolo suggerimento su come giocare bene a Pokémon. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, avevo messo da parte anche altre cose, ma esagero sempre un po'. Domani non c'è rassegna stampa perché la programmazione agostana, che si prolunga di qualche giorno, non la prevede. Ci risentiamo domenica prossima con la rassegna stampa dei quotidiani, e invece lunedì torna Alessandro Milan. Ancora un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli.